mi feci ricercare da chi non mi consultava. Mi feci trovare da chi non mi cercava, dissi eccomi, eccomi, ad una nazione che non invocava il mio nome. Distesi le mie mani tutto il giorno verso un popolo ribelle che procede su una via non buona dietro i suoi disegni, un popolo che mi provoca in faccia costantemente, sacrificando nei giardini e offrendo incenso sui mattoni, abitando nei sepolcri, passando la notte nei luoghi nascosti, mangiando carne di porco e cibi immondi nei loro piatti. Essi dicono: ritirati, non toccarmi, altrimenti ti santificherai. Queste cose sono un fumo al mio naso, un fuoco che arde tutto il giorno. Ecco, sta scritto davanti a me. Non tacerò prima di aver ripagato le loro colpe e le colpe dei loro padri, tutte insieme, dice il Signore. Essi bruciarono l'incenso sui monti e mi oltraggiavano sulle colline. Retribuirò le loro azioni passate a piena misura. Così dice il Signore. Come quando si trova mosto nel grappolo e si dice: non distruggetelo, poiché è una benedizione, così io farò per l'amore dei miei servitori, per non distruggere ogni cosa. Farò uscire da Giacobbe una progenie e da Giuda il possessore dei miei monti. I miei eletti li erediteranno ed i miei servitori vi abiteranno. Il Saron diventerà un pascolo di greggi e la valle di Acor uno stazzo per il grosso bestiame, per il mio popolo che mi ricerca. E voi che avete abbandonato il Signore, dimenticando il mio santo monte, preparate una mensa per Gad e riempite la coppa di vino per Menì. Vi ho destinato alla spada. Tutti voi vi piegherete per la strage, perché ho chiamato e non avete risposto. Ho parlato e non mi avete ascoltato. Avete operato il male al mio cospetto e avete scelto ciò che mi dispiace. Per questo così parla il Signore Dio. Ecco, i miei servi mangeranno e voi invece avrete fame. Ecco, i miei servi berranno, voi avrete sete. Ecco, i miei servi si rallegreranno, voi invece sarete confusi. Ecco, i miei servi acclameranno per la gioia del loro cuore, voi invece griderete per il dolore del cuore e urlerete per la contrizione dello spirito. Voi lascerete il vostro nome come esecrazione ai miei eletti. Che il Signore Dio ti faccia morire. I miei servi invece saranno chiamati con un altro nome. Chi vorrà essere benedetto nel paese vorrà esserlo dal Dio fedele, e chi giurerà nel paese giurerà per il Dio fedele, poiché saranno dimenticate le tribolazioni antiche e saranno nascoste ai miei occhi. Thank you. poiché ecco, io creo cieli nuovi e nuova terra. Il passato non sarà più ricordato e non verrà più alla mente. Poiché vi sarà perpetua gioia ed esultazione per quello che creo, giacché ecco, io faccio di Gerusalemme una gioia e del suo popolo un'allegrezza. Mi rallegrerò di Gerusalemme e godrò del mio popolo. Non si udrà più in essa voce di pianto né voce di grido. Non vi sarà più in essa un bimbo che viva pochi giorni, né un vecchio che non compia i suoi giorni, giacché il più giovane morirà a 100 anni, e chi non raggiungerà 100 anni sarà maledetto. Costruiranno case e vi abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno ed un altro abiterà, non pianteranno ed un altro mangerà, poiché i giorni del mio popolo sono come i giorni dell'albero. I miei eletti usufruiranno dell'opera delle loro mani. Non faticheranno invano, né genereranno per la perdizione, poiché essi saranno una prole di benedetti dal Signore insieme alla loro discendenza. Prima che mi invochino, io li esaudirò. Staranno ancora parlando che io li ascolterò. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia come un bue, e il serpente si nutrirà di terra. Non si faranno male, né si danneggeranno su tutto il mio santo monte, dice il Signore.